se ti scegli un orizzonte che è solo il tuo, verso quale puntare, la felicità è dietro l'angolo, la incontri da subito, non occorre arrivare là in fondo. Sono felice di annunciare che ho firmato il mio nuovo accordo con il Sydney Football Club. Vedere se obiettivo Formula 1 è raggiungibile o no, in prospettiva magari 2014, ma quello non, sinceramente non ci penso e non riesco a rispondere. Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio e buona settimana a tutti. Convocati naturalmente all'800240024, come oggi ho convocato il mio amico Paolo Ghisoni strappando la Sky. Ciao Paolo. Buongiorno, sono di riposo quindi. Quindi non t'ho strappato a nessuno? Assolutamente no. E poi avremo anche una guest star tra poco in questo inutile weekend di silenzio calcistico. Ricordo che un tempo il primo weekend di settembre era quello in cui iniziava il campionato di calcio, storicamente c'era il Gran Premio di Monza. Il campionato di calcio è iniziato, lo dico sempre, a beneficio delle pay tv con questo spottone da due giornate, si è fermato per la nazionale e ci becchiamo quella. In questo inutile silenzio calcistico brillano ancora di più le stelle di Errani Vinci, regine a New York. Sentiamo Roberta Vinci. La vittoria, a parte il conto in banca, è una vittoria incredibile, il secondo slam di quest'anno. È un'annata meravigliosa, tantissimi tornei vinti, cioè più di questo forse non si può chiedere. Finale in Australia, vittoria a Roland Garros, quarti a Wimbledon, che comunque non si buttano via, anche se non è... sono sempre dei quarti, e qui una vittoria, cioè un anno incredibile. E oggi verrà certificato il primo posto per la prima volta di una coppia italiana in testa alla classifica mondiale del tennis del doppio. C'era arrivata anche Flavia Pennetta, ma come Paolo Ghisoni, che di tennis ben sa, in coppia con l'argentina Dulco. È stato anche il weekend di Fernando Alonso, terzo posto, che vale il primo, vale quanto una vittoria, vale più 37 su Lewis Hamilton. Beh, in termini di campionato è stata una domenica perfetta, come un film. Alla fine è vero che Hamilton ha preso 10 punti, però era quello che avevamo più lontano. Due Red Bull fuori, Button fuori, noi sul podio, quindi speriamo di ripetere più domeniche così. E mentre Contador festeggia la Vuelta alzando polemicamente sette dita, come i sette giri da lui vinti sulla strada, compresi i due che gli sono stati levati, Tour de France 2010 e Giro d'Italia 2011, per la vicenda del filetto, come ben sapete, c'è anche, caro Paolo Ghisoni, Pippo Inzaghi, che il 9 settembre 2001 segnava il suo primo gol con la maglia del Milan. Il 9 è il suo numero di maglia, il 9 di settembre del 2012 vince la sua prima partita da allenatore, 5-1 al Bologna. Ho l'umiltà di pensare di non essere ancora un allenatore, però insomma, fuori dal campo cerco di darglieli, perché penso che quando trovi dei ragazzi di 16 anni devi prima di tutto essere un educatore, perché il risultato poi viene in secondo piano. Chiaro che fa piacere se si vince, soprattutto per loro, però il fatto di poterli insegnare magari come ci si prepara durante la settimana, come ci si arriva alla gara della domenica, il fatto anche stamattina insomma di averli portati in ritiro, aver mangiato tutti insieme, che per loro era una novità, penso che siano tutte cose che a 16-17 anni devono incominciare ad imparare. Io onestamente in questo momento non ci penso, io penso a crescere, e questa è un'opportunità straordinaria, perché veramente insegnare calcio a dei ragazzi del Milan è per me un motivo di grande orgoglio. Sono felice che il Milan abbia scelto me per portare questi principi. E naturalmente c'è anche sempre con i motori Tony Cairoli al sesto titolo mondiale nel cross, c'è Biaggi che risorpassa Melandri nella superbike. Allora, dove vuoi cominciare, Paolo? Quante ore abbiamo, scusa? 12. Ah, perfetto. Me l'avevi detto che era una radio 24 sport. No, immagino che tu voglia cominciare da Inzaghi. O no, sì. O da Errani. Partiamo dalle donne, dai. Perché sì. Robertina, devi sapere che sì. Nel 99, ieri sentivo che la Williams insomma ha vinto il suo ennesimo titolo a New York, e il primo era arrivato nel 99. Anche Robertina nel 99 aveva fatto una semifinale di doppio femminile, allora con Sandrine Testud, che era la sua sì. compagna di doppio. E in tutto questo escalation della Vinci, mi piace sottolineare il ruolo che ha avuto anche un mio carissimo amico, che è stato per anni il fidanzato, che adesso magicamente è sparito. Si chiama Francesco Palpacelli, un ragazzo che l'ha portata a Palermo. Poi dopo le strade si separano, come può capitare nella vita, però lui ha avuto un'impronta importante sul cammino di Roberta. Poi dopo i due, ripeto, si sono separati sentimentalmente e anche dal punto di vista tennistico. È arrivato Cina, che era un po', diciamo, un maestro di Palermo che comunque gravitava nell'orbita. Robertina si è legata a Cina dal punto di vista professionale, però come spesso succede a scuola, le basi, no, te le danno alle elementari. Poi dopo alle medie cominci un pochettino a articolare un po' tutto il discorso, e al liceo si spera che uno parli discretamente italiano, e credo che il percorso di Roberta sia stato un po' questo. È arrivata a 29 anni. Sì, sì, così come l'Errani, voglio dire. Sì, così come l'Errani, che è un pelo più giovane, però insomma ci hanno regalato il derby nei quarti di finale su uno dei campi più importanti nel mondo, quest'anno blu, quello degli US Open, e poi la vittoria nel doppio. Nel doppio, sì. Secondo titolo, come diceva lei, dopo Roland Garros, i quarti di Wimbledon che non si buttano via, come ha detto Robertino ieri. E poi insomma semifinale olimpica, lì forse c'è rimpianto, però con le Williams c'è poco da fare, dai, su. 800 24 00 24, convocati tutti, 349 238 6666, per parlare di ciò che volete. Io invece voglio parlare un attimo di Inzaghi prima del traffico. Lui adora i ragazzi, perché c'è qualcuno che già lo vede sulla panchina dei grandi, perché dicono che sì, Allegri questa, non dura tanto. Questa è una cosa che adesso voglio dire, non è che finisce sempre come Montella e Stramaccioni. Lasciamo il tempo a Pippo di diventare un allenatore. Credo che lui sia anche abbastanza intelligente per non farsi bruciare in eventuali situazioni un po' scomode. Lui ha sempre avuto una predilezione per i ragazzi, l'ho sempre detto, a me piacerebbe insegnare calcio ai ragazzini, forse perché sa, come sottoscritto, che tra i ragazzini, diciamo, c'è ancora, si può ancora coltivare il sogno del calciatore pulito. Magari ne parleremo dopo, no? Che cosa vuol dire calciatore pulito? Lui stravede per questo nipotino che è il figlio di Simone, e credo che è proprio nell'atteggiamento professionale, ma anche umano, possa avere una marcia in più. Poi è carismatico, insomma. Beh, se c'è uno carismatico è lui, soprattutto nei confronti su ragazzini di 16 voglio dire anni. Ieri ha detto: li ho portati in ritiro a mangiare per fare gruppo. Voglio dire, adesso in Serie B o comunque in Serie A c'è anche gente che arriva in ritardo agli allenamenti. Qui voglio dire, a Inzaghi che dice: andiamo a mangiare tutti insieme la pizza per fare gruppo, non dici di no, dici di no, se non altro per ascoltarlo. 800 24 00 24, numero verde, convocati tutti qui. Intanto leggo questo messaggio di Luigi da Venezia: ho capito che Contadora juventino, da 30 sul campo a 7 sulla strada, stessa filosofia, non male, eh? Alessandro da Bergamo, primo a rispondere alla convocazione, buongiorno. Ciao, buongiorno a te. Ciao, dimmi. Allora, sul mondiale di Formula 1 mi sembra che fra i due giganti il vento se la godrà di sicuro, che è Kimi Raikkonen, che zitto zitto su una Lotus che nessuno lo vuole neanche tenere in considerazione, ha 39 punti da Alonso. Sì. Un vice campione del mondo che rientra in una scuderia dove il budget... Sì, grande stagione di Raikkonen, però io dico che nessuno... Io non ricordo un pilota negli anni recenti che abbia meritato questo titolo come Fernando Alonso. Non lo dico da tifoso, ma lo dico perché lo penso davvero, l'ho detto molte volte, perché resistere e riuscire ad arrivare ora a questo punto della stagione con 37 punti di vantaggio su chi insegue, dopo aver sofferto, vissuto, ma soprattutto sofferto dei Gran Premi in cui la Ferrari non andava neanche a spingerla come i primi, raggranellando punti, vincendo anche delle gare che non doveva vincere, ebbene nessuno lo merita più di lui, e spero che quest'anno riesca a coronare quanto raggiungere quanto meritato. C'è Domenico su Twitter che scrive: Inzaghi diventerà allenatore del Milan e vincerà la Champions. Vabbè, glielo auguriamo. Sì, glielo auguriamo. Intanto ci sono diverse storielle carine di oggi che poi racconteremo, come ad esempio il Cesena dove fatti affidare dei fratelli, con Campedelli presidente che licenzia il Campedelli allenatore, notizia confermata, 3 partite 3 sconfitte e ciao, dopo l'1-4 in casa con il Novara. C'è Niang beccato senza patente, si è spacciato per Traoré, se volevano Balotelli quello vero, ci volevano i soldi, però tanto valeva comprarlo. Ce n'è un altro in Serie B che va in giro senza patente, c'è un altro di colore, sì. Ho avuto ieri notizie. Poi se l'è cavata con un verbale, forse questa mi sembra la notizia più grande, a quanto pare. c'è il Lecce, di questo poi parleremo, geniale, doppio carpiato per la retrocessione causa scommesse, che si presenta in campo con la maglietta sponsorizzata Bet Italy. D'altra parte, d'altronde, no, la nostra serie cadetta è giustamente serie B-Win. Senti, dovrebbe essere in linea la guest star di oggi, vorrei che la presentassi tu. E io sono un po' in difficoltà, Paolo, perché in difficoltà. Siamo amici, lo colleghi, so. E mi pare qualcuno, certo Brera lo paragonò, cioè creò proprio un neologismo per lui, Stradivialli, Gianluca Vialli, ciao Gianluca, grazie. Ciao ragazzi, che onore, una presentazione di Paolo Ghisoni. Vabbè. Hai visto? Potrei dire il contrario forse. Come va? Benissimo, tu? Tutto a posto. Londra si è normalizzata, dopo Olimpiadi, Paralimpiadi, si smonta tutto. Sì, sì, sì, però rimarrà, credo, indelebile per molto tempo l'orgoglio che hanno provato nell'organizzare qui una cosa così importante, e così l'hanno fatta proprio bene, sono divertiti, è stato come un party, no? Dove hanno partecipato sia insomma, gli inglesi che tutti i tifosi che sono venuti da fuori, e Londra è stata una perfetta padrona di casa, è stato tutto molto bello, e tra l'altro incredibilmente per tutto il periodo delle Olimpiadi abbiamo avuto il sole, anche quest'ultima settimana è stata meravigliosa. Oggi nevica? Oggi è già peggio, oggi c'è abbassata la temperatura e sì, oggi non è così bello. Prima domanda, Paolo Ghisoni, naturalmente. Io, visto che lui è esordito molto giovane, mi occupo di giovani, mi sembra, Luca, che il calcio italiano, dopo tante parole, si stia avviando veramente a riformarsi e a rivoluzionare un po' quelli che sono gli stereotipi degli ultimi anni, cioè i giovani ne parliamo, però adesso cominciano a giocare, no? Sì, beh, direi che è stata questa più una, più che per scelta, per necessità, no? Visto il momento economico e l'impossibilità di andare ad acquistare giocatori di un certo prezzo all'estero, e quindi credo che sì, giustamente le società siano guardate, guardino quello che facciamo noi in casa, i nostri giovani, i nostri ragazzi, che sono tutti bravi, sono forti, e quindi credo che abbiano oggi i nostri giovani una grande possibilità, una stagione in cui molti di loro avranno tantissimo spazio, e quindi devono cogliere questa possibilità. Il futuro del calcio italiano è anche nelle loro mani, dal mio punto di vista, e quindi dicevo, una grande responsabilità, loro devono mettercela tutta, chiaramente farci vedere di che cosa sono capaci, e magari ascoltare i giocatori più anziani, più esperti, quelli che rappresentano un esempio positivo, perché poi alla fine anche quello è importante, e speriamo che vada tutto bene, siamo nelle loro mani, speriamo che siano in grado di cogliere questa occasione, ce ne sono tanti veramente bravi. Io, Luca, ho una curiosità. Secondo me fino a poco tempo fa era una battaglia persa, nel senso che la critica arrivava in maniera proprio sistematica verso il ragazzino che giocava e che onestamente veniva buttato dentro quasi nel momento, come dici tu, della disperazione, per motivi di bilancio, per motivi di fine stagione, partite assolutamente inutili. Tu nel libro, nel tuo Italian Job, fai anche un'indagine piuttosto diciamo approfondita anche sulle motivazioni culturali, filosofiche dei vari paesi che abbracciano appunto il calcio, comparando l'Italia soprattutto con l'Inghilterra. Ecco, la mia sensazione è che bisogna vederne più di uno in campo, cioè l'occhio italiano, al di là del fatto che molti sono anche ignoranti in materia, abbiano bisogno di cominciare a capire che 4-5 ragazzi under, dico 20, tanto per dire un'età, debbano trovare posto fisso in una squadra di Serie A, e a quel punto lì tra le grandi, come sta facendo magari la Roma, e poi magari ne parliamo, e a quel punto lì la gente si abitua anche a capire, ad accettare che il giovane deve giocare, può sbagliare. Sì, è un discorso abbastanza complesso, perché poi al tifoso fa piacere vedere una squadra ringiovanita, una squadra che corre, una squadra con entusiasmo, dinamica, che gioca in maniera anche con leggerezza, no? Però poi vuole anche vincere, e quindi il giovane magari ci impiega un pochino di più, hai bisogno di aspettarlo, di insomma devi capire che può commettere degli errori, e quindi i risultati non possono, però voglio dire, questa mi sembra la strada che tutti adesso stanno accettando, e ci sarà, credo, quindi anche molta più comprensione nei confronti dei giovani, bisogna supportarli perché non sono ancora dei giocatori completi, poi se ce n'è uno, il problema è che poi tutti gli occhi sono su di lui. Se ce n'è tre o quattro, magari ci si abitua, però poi la squadra è un pochino più debole che se ce ne fosse uno solo. Comunque questo è il futuro, non possiamo fermarlo e speriamo che veramente i giovani siano in grado di cogliere l'occasione e penso che sia un bene per il calcio e per loro. Sì, anche se no, Luca, credo che non si debba sopravvalutarli o ipervalutarli, perché adesso, ad esempio, a proposito di Roma, adesso già si dice il futuro, il prossimo fenomeno, vediamolo, perché fino adesso ha fatto un'ottima stagione nel Siena. A proposito di Roma, non so quanto ti stia simpatico Zeman, ma dal mio punto di vista nel campionato italiano la Roma è, mi sembra, la cosa più interessante da andare a scoprire. No, guarda, Zeman secondo me è una persona molto molto intelligente, è anche un grandissimo paraculo, sì. E quindi insomma combatte le battaglie che gli convengono. Che gli convengono e quelle altre se le dimentica. Comunque questo è un giudizio personale, io tra l'altro non l'ho mai perdonato quando ha gettato un'ombra sulla carriera mia di Del Piero, ancora non mi ha chiesto scusa, ma va bene così. Detto questo, la Roma è sicuramente una squadra che può dare fastidio alla Juventus, secondo me, come lo può fare il Napoli, soprattutto se la Juve si distrae un po' con la Champions League. La Roma avrà questo grandissimo vantaggio di non giocare la Champions, stessa cosa che successe alla Juve lo scorso anno, e io per esperienza so che preparare una partita alla settimana è molto molto più semplice. Credo che la Roma sia a me ricorda moltissimo la Roma di Spalletti, cioè vedo la stessa fluidità, nella spettacolarità nel gioco offensivo, qualche magari distrazione ancora dietro, però è una squadra che vuol fare la partita e vuole imporsi, è veramente piacevole da vedere. Totti, secondo me, se continua a fare un po' l'anarchico e si sposta a giocare in questa posizione di centravanti arretrato con Destro e Osvaldo a fare le punte larghe ma non troppo larghe, possono essere un trio secondo me formidabile, forse anche il migliore del campionato. Il passaggio di Osvaldo, a parte i due gol segnati in nazionale, ma il passaggio di Osvaldo sul gol di del ragazzo giovane di cui adesso a San Siro, Florenzi Totti. Questo passaggio d'esterno è secondo me una cosa fantastica, e quindi mi piacerebbe vedere anche Totti concludere questa strabiliante carriera con uno scudetto. Quindi secondo me la Roma, l'unica cosa, sono due i dubbi. Uno, a tanti giovani, essere giovani a Roma con tutte le tentazioni, la pressione, non è facile. Il secondo dubbio che ho è che l'allenatore in fondo ha pochissima esperienza del calcio di vertice, nel senso di stare lì a vincere lo scudetto, non è semplicissimo. A proposito di scudetto, la tua Juve con questo marrone che mi piace sottolineare, creato inizialmente come centrocampista, adesso uomo davanti alla difesa, giocatore che può fare anche il centrale difensivo? Sì, questa è una, secondo me, è una come si dice, ispirazione, una trovata che Conte ha avuto, che potrebbe cambiare in positivo e comunque dare un'alternativa in più alla Juventus, cioè mettere in questa difesa 3 un centrocampista a fare il difensore centrale, quindi con capacità di impostazione e miglioramento della qualità della manovra quando si comincia da dietro, è un'idea che secondo me può rivelarsi importante. Poi il mercato, Asamoah, Isla, Giovinco, probabilmente il rapporto qualità-prezzo, i tre colpi migliori del nostro mercato. È chiaro, sì, che manca l'attaccante, no? E questo, però la Juve secondo me è stata intelligente, si è guardata in giro e ha detto l'Inter sta ricostruendo, il Milan è meno forte lo scorso anno, forse che vada a spendere dei top players, quelli che si cercavano, c'era solo Van Persie raggiungibile, gli altri avevano costi o troppo alti o gli altri erano troppo giovani, sì, e poteva essere un rischio. Quindi secondo me hanno detto aspettiamo ancora un anno, avremo più soldi da spendere a gennaio, l'anno 21, intanto ci facciamo esperienza in Champions League, tanto non la vinciamo quest'anno, sì, l'anno 21 investiamo sul top player. Secondo me ci sta. Sono d'accordo con te, Luca, sono d'accordo. Io ti ringrazio, Luca. Scusate se sono stato un po' prolisso. No, ma ti conosciamo. È che ho imparato da Ghisoni. Lo so. E ho detto tutto, vero? Sei stato fantastico, Luca Vialli. Grazie. Buona continuazione. Grazie, Luca. Ciao. Beccatevi Galliani e Preziosi. E allora mi basta la mia libertà. Franco Califano si affaccia una donna che un sorriso mi fa. È una di quelle, ma è bella e stasera mi va. Passo un'ora in sua compagnia e poi vado via. Non mi fido di nessuno, sono rose e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Meno male che ricomincia il campionato, Paolo Bisogna. No, meno male che avete messo il pezzo originale dopo. Marino, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo parlare per ciò che riguarda le cosiddette scuse richieste dal signor Vialli, sì, al signor Zeman. Cominciamo con i signori, Signor Vialli, sì, signor Zeman. Sì, dica. No, io volevo solo precisare che il signor Zeman si basa sulla sentenza che è stata emessa dal Tribunale di Torino, in cui, pur prescrivendo il reato della Juventus di quegli anni, in cui giocava anche Vialli, non parlando di Vialli, però di altre persone, diceva che insomma avevano fatto uso di cose non corrette, però le prescriveva perché erano passati gli anni, sì, e non poteva più condannare. Sì. Ma il reato c'era stato, perché ci sono anche le cartelle cliniche che dicono quello. Sì. Non so, io credo che il signor Zeman non debba proprio delle scuse. Io credo che sarebbe meglio che stessero zitti tutti e facciamo finta di niente. Stessero zitti tutti e facciamo finta di niente, io dico di no. Io invece ritengo che ci sia libertà di parola, di espressione, e che ognuno abbia diritto di tenersi i suoi pensieri. Poi che Zeman abbia combattuto a lungo e stia ancora combattendo questa battaglia contro la Juventus è un dato di fatto, a ragione o a torto, no Paolo? Sì, poi credo che Luca si riferisse più che altro all'aver infangato quello che è stato il resoconto del campo, insomma, sul fatto che la Juventus vincesse magari quello che ha vinto, e che le illazioni che poi dopo, secondo il nostro ascoltatore, ma anche secondo le cartelle cliniche emerse, avessero un fondo di verità, ci può essere sicuramente una correlazione. Resta il fatto che però il fatto della crescita sproporzionata non è assolutamente legato a un discorso, o correlato necessariamente a un discorso di assunzione di sostanze medicinali. Cioè, il differenziale è proprio questo, che probabilmente alla Juventus qualcuno assumeva qualcosa, ma non è detto che fossero. No, poi bisogna vedere chi, che cosa, e sì, bisogna avere le prove. Le sostanze avere che ingrossavano la massa muscolare, perché Zeman si riferì proprio a questo, alla crescita, sì, smisurata dal punto di vista muscolare di Del Piero e Vialli. Insomma, quindi probabilmente, se da un certo punto di vista le cose sono state provate, dall'altro forse il fatto che Vialli e Del Piero avessero avuto questa crescita dovuta a questa situazione non è comprovato, insomma, quindi probabilmente, certo, Luca si riferiva a quello. Certo. Alberto, provincia di Cremona. Salve. Salve. Senta, io non me ne intendo di sport, assolutamente, di calcio tantomeno. Da piccolo, fino ai 10 anni, tifavo per la Juve, perché così nel banco insieme avevo un mio amico che tifava per la Juve. Io, se dovessero dirmi, ti do un miliardo, dimmi quali giocatori sono adesso della, sì, Juve, direi Charles, Matrel, Sivori. Sì. No, io le faccio una domanda. Dica. Delle volte mi capita di sentire la sua trasmissione e così mi aveva incuriosito, siccome non me ne intendo, non seguo, un giocatore che mi pare lo volesse comprare, straniero, la Fiorentina, che però era stato bloccato, voi avete detto, all'aeroporto, perché gli avevano offerto di più all'ultimo momento. Berbato. Un'altra squadra. Voi sapete chi è che ha vinto l'asta? Gli inglesi del Fulham. L'asta l'hanno vinta gli inglesi del Fulham, e Berbatov è veramente pulcinella, Paolo? Mamma mia. Cosa pensi di questa vicenda? Vado a Firenze, mi fermo prima a Torino e poi torno in Inghilterra, che mia moglie, sì, vuole star lì. In tutto questo mi è piaciuto Pradè, che ha detto: va bene, allora ci ridia, visto che non doveva venire, almeno ci ridia il biglietto, il prepagato. Sì, sì, prepagato. Noi alla Fiorentina magari ci fanno comodo. Giuseppe Foggia, buongiorno. Buongiorno. Salve. Poi restiamo, poi dico solo che poi restiamo. Aspetti, dico solo che poi tra poco restiamo in Puglia per un'altra storia che mi piace da morire. Dica. Onorato di partecipare alla vostra radio trasmissione. Onore tutto nostro. Senta, volevo rispondere al signore che parlava delle di Zeman e delle scuse che non deve a Vialli. E dice che la Juve non è stata condannata perché è caduto tutto in prescrizione. Al massimo dovrebbe anche ricordare come nemmeno Moratti e l'ormai defunto signor Facchetti non sono stati condannati per la prescrizione. Questo non lo ricordano. Sì, vabbè, ma non vorrei aprire, poi, Giuseppe, ma non apriamo queste battaglie di retroguardia, perché io poi non peraltro, non me ricordo, cioè tendono a non ricordarmele più. A rimuovere, bravo, anch'io. Tendo a non ricordarmele più, quindi potrei essere impreciso, anche perché non me ne frega moltissimo di queste battaglie di retroguardia. Vuole dire qualcos'altro? Sì, volevo dire, puoi parlare anche di Berbatov, comunque non Berbatov. Secondo me, un giocatore che non merita il calcio italiano, chiuso. Beh, insomma, Berbatov è un giocatore che certamente non merita i soldi che guadagna, ma perché? Perché uno che si comporta così è un pagliaccio, punto e basta, a prescindere dal lavoro che fa, quindi poi trova chi glieli dà, e poi anche lì fino all'ultimo aspettava la telefonata del Tottenham che magari gli dava 3 sterline in più. Sì. Quindi ma d'altra parte, o forse a rotonda sono... facendo il pagliaccio, forse hai trovato forse a rotonda facendo il pagliaccio o l'entrenose calcistica. Poi si lamentano di Ibrahimovic, ma come Ibrahimovic, ce n'è di peggio, almeno lui va dove, però lui lo dichiara, lì bacia la maglietta, sa che è tutto finto, amore a pagamento e via andare. Prima di Aldo da Siena vorrei rimanere in Puglia per sentire, allora, questa storia che mi fa impazzire, il Lecce, accennavo prima, Carpiato in Lega Pro per essere stato coinvolto nel calcio scommesse, si presenta in campo sponsor Bet Italy, fantastico. L'amministratore delegato di Bet Italy si chiama Bandinelli e dice queste cose. Sono Giuseppe Bandinelli, amministratore di Gilupi, proprietaria del marchio Bet Italy. La nostra azienda, come probabilmente molti di voi sanno, si interessa di giochi online e di scommesse sportive. La mia posizione è un po' imbarazzante e, come tutti voi, tutti i tifosi insomma del Lecce, sono stato abbastanza amareggiato e frastornato per quanto successo. Noi come azienda avevamo due opportunità: o lasciare o raddoppiare. Abbiamo pensato, anche in virtù della disponibilità della nuova dirigenza, di raddoppiare il nostro impegno. Hai capito? Quindi o è un eccesso di autoironia o una rivendicazione di innocenza un po' tardiva da parte del Lecce, oppure un modo di dirci, siamo così puliti che non abbiamo problemi, oppure pecunia non olet, quindi va bene anche quelli, tanto il mercato delle scommesse è in controtendenza. Io ero imbarazzato io quando lui diceva sono in imbarazzo. Sono in imbarazzo. Cioè, veramente, non c'è fine al peggio. Perché peggio di avere, ripeto, una cadetteria. L'anno scorso avevano mediamente 3-4 giocatori coinvolti a società. Sì. E lo sponsor è quello. Se ormai anche la squadra che paga una cosa di questo genere si affida come sponsorizzazione a... Volevano aprire il punto, non so se è vero, ma ho sentito che volevano allo aprire stadio, via allo del stadio, mare, eh? Via del mare, punto immagino. Scommesse, ma sì, tanto ci sta. Aldo, ne ho saputa una ieri, poi dimmi, dopo te la racconto. Poi me la racconti. No, circa 900.000 euro a stagione per la sponsorizzazione, pecunia non olet in questo momento. Aldo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, dottor Genta, la vorrei correggere su un'esternazione che ha fatto poco fa. Secondo me l'ha fatta errata quando ha detto che Zeman combatte questa battaglia contro la Juventus. Zeman non combatte questa battaglia contro la Juventus, ma la combatte contro il doping in generale e poi a detta sua anche a società che contro l'arbitro, come disse lui. Ecco, allora io mi domando se sia la pratica del doping che la pratica di contro l'arbitro le adotta la Juventus, è chiaro che Zeman porta per esempio la Juventus. Sì. Purtroppo l'Italia c'è solo quella società, allora deve portare. Aldo, però a me sembra sta lì. Aldo, tutto, però a parte il fatto che questa è una storia abbastanza vecchiotta, no? Zeman però non ha mai smesso comunque di buttare i sassi che guarda caso finivano nello stesso stagno. Sì, poi ogni tanto farebbe piacere anche avere qualche altro nome, sì. Nel senso, è vero che fa notizia dire che non capisco perché Conte si lamenti o cose di questo genere, però se magari Zeman una volta provasse anche a, come dice giustamente il nostro ascoltatore, a colpire altre situazioni, dubbi, visto che ce ne sono state, certo. Qui c'è stato un processo, benissimo, però ci sono state tante altre situazioni, magari ci divertiamo di più, ma sì, ampliamo un po', diversifichiamo, sì, sì, non sarà più Zeman contro la Juve ma sarà Zeman contro il doping, certo, magari colpisse d'accordo. Anche non lo so, adesso facesse una bella dichiarazione su Armstrong, Zeman, a questo punto prendesse posizione anche su questo, allora diventa veramente, come dire, un'icona, sì, di questa situazione. Esonero in famiglia. Fratello maggiore. Nella famiglia c'è sempre un fratello maggiore, se non c'è lo affittano perché qualcuno ti deve rompere i coglioni. Il fratello era più alto, più muscoloso, più intelligente, correva fortissimo, correva sugli alberi, faceva tutto lui, e mia madre complice mi comprava tutto nuovo. Un giorno, una domenica, mio padre lo nominò fratello maggiore, gli mise i gradi qui. Io fratello semplice, lui fratello maggiore. Lui tutto, io niente. Fratello maggiore, Igor, che chiama fratello minore, 33 anni, prima esperienze sulla panchina, gli dice: ascolta fratellino, 1-4 in casa col Novara, 3 sconfitte di fila, troppa roba, forse è meglio che vada ad allenare da un'altra parte, forse è meglio che chiamiamo un allenatore al Cesena. Eh sì, anche se questa sembrava la situazione più logica possibile, no? Per sì. Mantenimento dello status quo, però probabilmente anche la piazza, ieri sentivo, insomma, Cesena 7800 abbonati per la Serie B, non sono pochissimi, no, eh? No. Parti pronti via, pigli tre pere alla prima partita in casa, alla seconda pigli 4, vendi Malonga al Vicenza e la domenica ci giochi, Malonga ti fa doppietta, forse cominci a capire che a livello societario metti una postilla, ma dici guarda, Malonga gioca dalla prossima, sì. Forse c'è un po' di marasma. Oppure più realisticamente è rischioso fare gli affari in famiglia, eh? Sì. Meglio scindere. C'è chi scrive: nel filone Berbato e Vibra vedetevi pure le ultime dichiarazioni di Lugano del Paris Saint-Germain, che dice: zero presenza in stagione, guadagno tanto, ma resto, via solo se pregiudico la nazionale. Alberto, Foggia. Alberto? Pronto? Sono io? Sì, è lei. Ah, no, sono da Lecce, non Foggia. Dica. Allora, io volevo giusto così dare un po' di salto ad una notizia che ho ascoltato oggi al Radio 24, credo. Il giocatore Farina, che ha dato il via al filone di inchieste sul calcio scommesse, sì. È attualmente disoccupato. E questo mi ha fatto pensare ad un'altra cosa. Su Conte si è detto che molti giocatori hanno smentito quello che aveva confessato Carobbio. Io penso che nel calcio ci sia ancora tanta onestà. E questo perché c'è ancora la GEA, c'è tanta. Ma non lo so, non so se c'entri la GEA, anzi, non. Ti racconto quella di ieri? Bravo, racconta quella di ieri. Senta questa, allora, società diciamo importante. Viene nominato una persona che deve un pochettino sanare il bilancio, dare un'occhiata al bilancio. Il bilancio del mese o comunque di un periodo di 30 giorni risulta superiore a quello che tendenzialmente, quello che viene speso risulta superiore a quello che tendenzialmente è il budget, ma non di 50 euro. Parliamo di milioni di euro. Le faccio l'indovinello. Questi milioni di euro a settembre dove sono finiti secondo lei? Visto che le spese insomma, per la gestione della società di calcio sono quelle, una volta ripagato i magazzinieri, le trasferte, cose di questo genere. C'è un disavanzo di parecchi milioni di euro a settembre. Secondo lei dove sono finiti? È una domanda un po' difficile. Servono al fatto che magari alcuni giocatori senza contratto possono anche essere dismessi, però vogliono la buona uscita. E perché vogliono la buona uscita, secondo lei? Non lo so. Per lo stesso motivo per cui Farina non trova una squadra. Per stare zitti, cosa dici? Per lo stesso motivo Farina ha parlato e se è disoccupé. Gli altri stanno zitti, probabilmente si fanno una buona pensione, capisci? Non giocano, si ritirano, vanno da altre parti. Però questo è il calcio italiano, purtroppo. Ivan Ferrara. Ma io, si sente? Sì, più o meno, dica. Volevo dire che io volevo parlare di giovani, ma faccio una battuta a Ghisoni. La Juventus, molti non fanno battute su altri perché fa di tutto per rimanere al centro. Agnelli in questa vicenda non c'entrava e invece ha fatto di tutto, bandiere, avvocati, ma a parte questo, l'ha detto Ghisoni adesso, questo purtroppo è il calcio italiano. Volevo chiederle una cosa sui giovani, perché non sono completamente d'accordo con una cosa che ho sentito prima. Io credo che noi non abbiamo fatto la scelta dei giovani, noi siamo rimasti, per le ragioni che conoscete, senza risorse e siamo diventati un campionato poco interessante. Purtroppo per occuparsi di giovani bisogna saperlo fare, bisogna fare come l'Arsenal. Invece noi arriviamo gli ultimi tre giorni di mercato con la speranza che dismettano i vecchi che magari passano per usato sicuro. E poi invece ci accontentiamo dei giovani. Vedi il Milan, io sono milanista, non è riuscito a riprendersi Antonelli che era suo, Astori che era suo, eccetera, e alla fine, come dire, fa quello che si può. Io temo che se questo è il modo per puntare sui giovani avremo molti, ma molti. Cioè, anni, dice, si va sui giovani perché non c'è i soldi per comprare quelli vecchi che guadagnano troppo. Grazie. Può essere, però può anche essere che al posto dei giovani italiani vengano presi dei nomi, diciamo, esotici che in realtà sono delle pippe. Quindi va anche bene il fatto che in questo momento accettiamo che il Milan faccia giocare De Sciglio e Sharawi titolari, che la Roma abbia destro come punto di riferimento. Apro una parentesi: Balotelli destro 3 anni fa era la coppia di primavera dell'Inter e adesso è la coppia in nazionale. Cioè, a proposito di tempo, no? Sono bastate 3 stagioni per vedere questi due che giocavano in primavera con l'Inter in nazionale, non a giocare nel pizzighettone, con tutto rispetto per il pizzighettone, visto che prima c'era Luca che è cresciuto calcisticamente lì. Quindi è vero che dobbiamo fare di necessità virtù, però io credo che adesso vedere squadre importanti che cominciano ad abituare i tifosi, nonostante tutte le situazioni, ad avere in campo Florenzi destro, che sono giovani però sono nel 91, quindi 21 anni, hanno già una certa maturazione, e Sharawi De Vito da una parte, scusate, De Sciglio da una parte, insomma... Piano piano, se Marrone nella Juventus, che è un 90, poi Berbatov non è arrivato, gioca Giovinco. Perché se poi arriva pure Berbatov, allora poi i titoli, il top player è Giovinco, certo. Non lo so se lo facciamo. Mi sembra più complicato. Senti Paolo, io adesso devo raccontare una storia di Champions e poi ti faccio, per chiudere questa puntata, una domanda sulla prossima Champions League. I numeri della Champions. I numeri della Champions vi do questi intanto. 4 settembre 55 si gioca la prima partita di Coppa dei Campioni allo Stadio Nazionale di Lisbona. Si sfidano lo Sporting e il Partizan Belgrado, finisce 3-3 e pensa un po', caro Paolo Ghisoni, il primo gol assoluto nella storia della Coppa dei Campioni lo segna il portoghese Martins, ma nella partita inaugurale la prima doppietta è opera di Milos Milutinovic, del Partizan, fratello del celebre Bora Milutinovic. Questa non la sapevi neanche tu. No, quando hai detto portoghese per un attimo ho temuto che mi dicessi Mourinho, perché no. Lui è onnipresente, quindi Mourinho lì non c'è arrivato. I numeri della Champions in collaborazione con Unicredit. Dunque, in 30 secondi non posso che chiederti chi è la tua favorita per la Champions League che verrà. Non si scappa, siamo lì. Le spagnole sicuramente. Spagnole, tutte e due. Barcellona, sì. Real. Ci aggiungiamo il City? City, bisogna vedere, perché prima hai detto di un allenatore, prima diceva Luca Zeman l'abitudine a vincere. Secondo me Mancini a livello europeo questa abitudine la deve ancora costruire. Quindi grandi favoriti dei due spagnoli. Io ringrazio Paolo Ghisoni, che naturalmente presto tornerà a trovarci. Franco Piantanida in redazione, Matteo Comes in regia. L'appuntamento con tutti i convocati è domani alle 2 su questi schermi. Ciao.